primo stato di un essere umano. Mica polvere che nella vita è respirato. Andiamo piano piano a farci fottere, non ci capiamo. Ci fottiamo tra di noi con lotte che non servo e noi lottiamo. Per sopravvivere non basta scrivere, bisogna viverle le situazioni in cui noi ci troviamo. Provate a non decidere senza conoscerle, solo per sentite dire fra nelle canzoni non mentiamo. Ci proviamo a farvelo capire a modo nostro. Fino inchiostro, palco voce più veloce che posso. Il tempo scorre atroce, segno della croce, è normale. Se un amico entra in ospedale in codice rosso, scosso, mi do una mossa vita puttana. Non trovo una risposta, una riscossa si allontana. In allontanamento sta svanendo al tramonto come cenere. Mi smonto se soffia vento di tramontana. Che non pensavamo di poterle superare. E so che le radici le ho nella cenere. Mi basta questo e questo resto. Se non vedo non credo quasi in qualsiasi momento. Le parole come cenere le porta via il vento. E basta un soffio, quindi gli do il giusto peso. Lo spino acceso per me come un punto di riferimento. Non bevo le vostre cazzate, ne sono astemio. Son contento che so che non devo prendervi sul serio. Io da mio padre ho preso l'essere testardo. Da mia madre ho preso lo sguardo, sguardo fiero per non essere un codardo. Ehi tu, l'amicizia non è come dici. C'è differenza dall'essere amici ed essere amici su Facebook. Mi alzo tutti i giorni alle 4 e Cristo il mondo intero. La vita è dura se tu vuoi forgiare l'armatura che ti renderà un guerriero. Manca poco che sclero, noi cresciuti con la cenere. Penso a com'ero e penso ai tempi, ho rischiato di cedere. Mattone su mattone mi costruisco la vita. Peso la gente sul tanita, ad ognuno darò un valore. Ci siamo sempre fatti bastare la cenere. Anche le sere che non pensavamo di poterle superare. E so che le radici le ho nella cenere. Mi basta questo e questo resto. Parole buttate al vento dissolvono come cenere. Ci hanno insegnato a credere senza però ricevere. Mi dicono di smettere, ma che si stanno a intromettere. Dopo che stanno a mettere determinate regole. Ricordi indelebili, spariti, coperti dall'odio. Punta al podio, ci riprovo, ma non è nulla di nuovo. La gente la sfrutti in questo mondo di ladri. La legge è uguale per tutti, se vista su altri piani. Giudici infami, giudichi e mi indaghi. Dubiti che gli unici stupidi sono i bravi. Ti sbagliavi, ruvidi col tatto. Susciti malori, multipli all'olfatto. Come aver dei luridi a contatto, sei il più falso. Ho tante risposte che aspetto da un bel pezzo. Forse perché ho solo pensato e non l'ho mai chiesto. Scrivo di rigetto sopra un foglio maledetto. Butto la cenere fino all'arrivo del paletto. Ci siamo sempre fatti bastare la cenere. Anche le sere che non pensavamo di poterle superare. E so che le radici le ho nella cenere. Mi basta questo e questo resto. Grandi.